Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna settimanale dedicata ai temi europei, alle istituzioni europee, ai giornali europei o a quello che i giornali di altri paesi dicono di noi europei. E cominciamo questa volta da Libération, che è un quotidiano francese storicamente schierato a sinistra, ma comunque molto autorevole, con anche una grande tradizione di giornalisti che si occupano di politica estera. Ha pubblicato un articolo che si intitola Barroso e Kroes portano avanti la tradizione neoliberista. Come vi dicevo, appunto, è un quotidiano che spesso ha la sua interpretazione dei fatti, quindi questa tradizione neoliberista, quindi sicuramente nella tradizione economica, diciamo così, di destra, non piace molto a Libération. E Antoine Vaucher di Libération scrive: José Manuel Barroso, che ricorderete è l'ex numero uno della Commissione europea, a Goldman Sachs e Nelly Kroes al Comitato di Consiglio della Politica Pubblica hanno parlato appunto della loro idea di neoconservatorismo. Il quotidiano francese li chiama transfughi che dal settore pubblico si sono spostati al settore privato, perché Nelly Kroes è l'ex commissario alla concorrenza, comunque la si veda, e comunque a volte i commissari o i presidenti di commissione sono in effetti legati a un partito politico, e però comunque la si veda, appunto, si passa dalla gestione della cosa pubblica a incarichi nel privato. Lo fanno tantissimi politici, lo hanno fatto, uno forse il più famoso in Europa è Tony Blair, che dopo essere stato per due mandati premier britannico si è poi dedicato interamente alle consulenze per il settore privato, suscitando anche non poche critiche. Libération prosegue spiegando che questi due transfughi devono fare nel settore privato esattamente il contrario di ciò che erano tenuti a fare in quello pubblico, eludere col gioco delle interpretazioni, delle eccezioni e delle deroghe ciò che prima si impegnavano a stabilire, ossia l'efficacia delle regole europee in tema di mercato interno, di concorrenza e di controllo dei deficit di bilancio. E l'articolo è molto lungo, lo trovate interamente tradotto sulla mia passione, che sapete, il sito voxeurope.eu, dove vengono tradotti molti articoli, vengono anche autoprodotti altri articoli, e ci sono anche pubblicate spesso delle vignette sempre a tema europeo, molto interessanti, divertenti, come sempre una vignetta a volte non sempre riesce a cogliere l'essenza di un evento o di un momento storico, magari più di lunghi articoli o analisi. A proposito di elezioni, questo è un altro tema che sfugge spesso da un'altra elezione che è sfuggita, come tanti altri, dai radar dei media principali, sono le elezioni politiche che si sono svolte alla fine di ottobre in Lituania. Ne dà notizia Vaidas, che è un settimanale, un news magazine lituano, appunto, e anche in questo caso la traduzione la possiamo leggere grazie a Vox Europe. Il voto, scrive questo news magazine, ha visto crollare la maggioranza uscente e il trionfo degli agroverdi. Quindi, insomma, non è detto che ovunque, in tutti i paesi europei, ci siano dell'ascesa di partiti fortemente populisti o di centrodestra. In questo caso, appunto, gli agroverdi non lo sono. Ciò non toglie però che il voto, scrive questo settimanale, è anche una dura sconfitta per i socialdemocratici, che hanno ottenuto soltanto 17 seggi perdendone 21, mentre si è rafforzato il partito dei conservatori. In ogni caso c'è comunque un problema di governo che ha dentro di sé molte anime, e a dirigere questo nuovo governo dovrebbe essere il popolare ex ministro dell'interno dell'esecutivo uscente, che è anche un ex poliziotto, Saulius Skvernelis. A proposito invece del tema dei migranti, che anche qui ce ne occupiamo un po' a intermittenza, poi è chiaro che quando poi ci sono eventi saltano ogni priorità e diventano l'argomento principale dei giornali, penso per l'Italia è stato il terremoto, poi naturalmente in questa settimana il risultato delle politiche americane, ciò non toglie che naturalmente tutto quello di cui non parliamo più non si ferma dove l'abbiamo lasciato, e uno di questi grandi temi è l'immigrazione in Europa. E sulla Faz ho trovato un articolo interessante che riguarda una barriera antirumore che è stata costruita alla periferia sud-orientale di Monaco, la città del sud della Germania, per limitare il fastidio di un centro d'accoglienza per profughi minorenni di prossima apertura. Pur concordata col comune, la barriera imposta da un tribunale viene criticata perché sarebbe di fatto un muro anti-migranti, peraltro più alto di quello di Berlino, che per fortuna non c'è più. Proprio questa settimana, il 9 novembre, ricorreva l'anniversario della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre del 1989, una data storica per il secolo scorso. La costruzione della barriera nel quartiere Neuperlach era stata decisa in giugno quale compromesso fra l'esigenza di avere un centro di accoglienza per 160 bambini e ragazzi profughi senza genitori e la quiete reclamata dagli abitanti. Questo naturalmente si inserisce nella discussione sui muri, purtroppo ne abbiamo visti erigere o minacciare anche altri in Europa, e quindi di nuovo si richiama l'attenzione a una politica europea che deve anche su queste questioni, cioè su governi o città che si inventano muri, dovrebbe forse avere una voce più forte. Le Figaro invece, sì, sempre a proposito del problema dell'integrazione, dell'immigrazione, si parla di un altro centro che verrà costruito per l'accoglienza a Ivry-sur-Seine, nel sud-est di Parigi. Viene definita una cattedrale di cemento ed è un centro di 13.500 metri quadri che dovrebbe essere completato in pochi mesi, e però siccome è stato progettato sulla base di una previsione di arrivi che in realtà adesso è stata anche alzata, probabilmente comunque non basterà. Le autorità stimano circa 80 arrivi al giorno e la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha detto che questo è un approccio che lei definisce umanista al problema dell'immigrazione, e però ci sono già molte proteste all'interno a Parigi, ma anche in generale in Francia, sull'opportunità di costruire dei centri così grandi, naturalmente con soldi pubblici, e senza avere chiarezza su come verranno scelte le persone che ci entreranno, e se davvero poi ci sarà un tetto, o se si rischia il sovraffollamento, un tetto al numero di persone che possono essere accolte. A proposito di Brexit, invece, sapete la uscita della Great Britain dall'Unione Europea, sancita dal referendum del 23 giugno scorso. Sappiamo che ci sono molte incognite sulle modalità con le quali il Regno Unito effettivamente uscirà dall'Unione Europea. Ricorderete la scorsa settimana il Parlamento britannico che ha detto che ci vuole un voto del Parlamento su questa questione, non basta il referendum, e quindi ha di fatto stoppato la Premier Theresa May spiegare nei dettagli con che termini la Gran Bretagna intende uscire dall'Unione Europea, attivando il famoso articolo che riguarda appunto la possibilità che un paese a un certo punto dica: è stato bello fin qui, ce ne andiamo. A proposito però di Brexit, i quotidiani britannici questa settimana si sono molto esercitati sulle dichiarazioni di Theresa May, che ha accolto a Londra una delegazione cinese e ha promesso nuovi rapporti con la Cina, che naturalmente esulano dalle regole che sono valse finora per quando il Regno Unito era all'interno dell'Unione Europea. E poi sempre a proposito delle mosse di Theresa May in tema Brexit e dintorni, anche come reazione all'elezione di Donald Trump, Theresa May ha detto, e anche qui in palese violazione, una novità rispetto alle regole che sono state in vigore appunto fino adesso, Theresa May ha parlato di una nuova fase dei rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti, finalmente il Regno Unito libero dai lacci e lacciuoli, potremmo dire, che imponeva l'Unione Europea, che tra l'altro sappiamo sta negoziando un grande trattato che purtroppo è anche a rischio fallimento, il TTIP, di libero commercio, libero scambio, o che regoli almeno, rendendolo quanto più libero possibile, il commercio tra Unione Europea e Stati Uniti. Per quanto riguarda invece il terremoto, l'abbiamo accennato, se ne occupano ancora tantissimo i giornali stranieri perché riprendono un po' i dati che ci sono su come si sta organizzando la ricostruzione, la messa in sicurezza del nostro fragile territorio. E allora, per esempio, Elisabetta Povoledo, corrispondente del New York Times, per il New York Times dall'Italia, cerca di spiegare che cosa è successo e perché i danni sono stati localizzati in alcuni paesi, magari il paese vicino no, spiegando appunto che il problema è la messa in sicurezza del paese. E anche in questo caso forse, senza forse, l'idea che questa messa in sicurezza farà violare all'Italia le regole del patto di stabilità europeo. Un'ultimissima segnalazione ve la posso fare sempre grazie a Internazionale, da un giornale turco, Hürriyet Daily News, che parla apertamente, ma chissà poi se ci sono state delle conseguenze a questo articolo, di come il direttore di alcuni giornali e alcuni giornalisti, scusatemi, del quotidiano Cumhuriyet sono stati arrestati per sovversione. Il fallito golpe è di luglio. Ma Erdogan continua questa repressione verso la stampa e altri esponenti della società civile che lui considera nemici. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.